Questo scudetto perché non l'assegniamo all'Inter, dato che loro sono campioni in questo esercizio per vincere campionati a tavolino? Cioè, volete assegnare uno scudetto alla Juventus per un punto di vantaggio sulla Lazio con 12 giornate da giocare? Ma stiamo scherzando? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi sembra di dire una cosa ovvia che tutti noi speriamo, che è quella che un giorno, quando finirà tutto, speriamo al più presto, se c'è la possibilità, di ritornare a giocare. Cioè, è una cosa che pensiamo tutti, poi se qualcuno ci vuole ricamare sopra. Dopo la partita col Pescara avevo 22 punti sulla terza e sono stato il primo a dire basta calcio, non ha più senso giocare così. Per cui io ho detto esattamente il contrario, per cui se probabilmente avesse letto bene l'articolo non sarebbe passato a fare questa esternazione di senza stile, veramente di basso livello, anche perché noi poi siamo personaggi che ci portiamo dietro tantissimi tifosi, dobbiamo essere d'esempio, lui è anche rappresentante della FGC. Non l'abbiamo citato, comunque Demetrio Albertini era la polemica. Sì, è veramente stato scadente quello che ha detto. E poi oggi ho letto che mi considera un amico, però insomma io l'amicizia la vedo in una maniera diversa, perché se uno fosse stato un mio amico non gli avrei dato dell'ignorante via social, che poi è un mezzo. L'avrei chiamato e avrei chiarito se c'era qualcosa da chiarire in modo da uomo. Stiamo a casa ma litighiamo lo stesso, su qualunque cosa, preferibilmente via social. Oggi Anita Panizza con Claudia Schiattone in redazione e Roberta Fresani in regia. Io con Pardo non litigo quasi mai in nessun modo, per la verità, Pierluigi. Ma sì, veramente, litighiamo proprio poco. L'amore non è bello. Ma non è che io sia orgoglioso di questa roba qua. Ma mi dà anche un po' fastidio, però veramente non. L'amore non è bello se non è litigarello, ma sarà che non, io non uso molto i social. Sì. Tu mi dai del democristiano, però. Ma no, ma non uso. Sarà che io non uso molto i social, sarà quello, perché poi litigare sui social è meraviglioso, no? Albertini che dà dell'ignorante a Inzaghi, e Inzaghi che risponde via voce, come abbiamo sentito. Ma poi ci sono stati anche l'ennesima puntata Vandanara, Icardi Maxi Lopez, ma non sai, Maxi Lopez ha detto ma come porta i figli nel cuore, nel centro del ciclone, il cuore del contagio, bla bla bla. Certe cose in una vita normale chiami l'avvocato, ci pensa lui grosso modo, invece no, social, così lo sappiamo tutti e siamo tutti molto felici. Buongiorno Franco Ordine. Buongiorno, però io farei una distinzione netta, se mi permetti, sì, tra la lite familiare dovuta a questioni di salute e la polemica tra Albertini e Inzaghi. Tutti distinguo che vogliamo, tutti distinguo che vogliamo. Fatto sta che in un mondo normale Inzaghi non ha torto. Se dice che sei un mio amico, non è che lo dice a tutto il mondo che sono un ignorante. Mi chiami e dice ma sei scemo? Vuoi tornare a giocare in queste condizioni? Non mi è sembrata una genialata, insomma. Io ho capito, ma allora adesso voglio litigare con te. Non sarà stata una genialata, ma ha detto una cosa in cui dobbiamo squarciare il velo dell'ipocrisia, perché il signor Inzaghi, come il suo presidente, vuole a tutti i costi continuare, perché dice no, io sto in Serie A, ho guadagnato la Serie A e quindi voglio finire l'anno 21, voglio giocare in Serie A. Questo è quello che c'è dietro. Certo, ma questo è evidente. Questo è evidente. E allora togliamo il velo l'ipocrisia. Ecco, su questo ti dico, togliamo l'ipocrisia nel senso come dai, corollario di quanto ho detto. Non mi fare sentire, dai. No, tu. Ma guarda, ti sto chiamando anche Biasin per farti litigare alla radio, solo che in questo momento non prende il telefono, secondo me si è dato alla macchia. È un altro di quelli che dice, ah no, ma con queste condizioni come si fa a pensare di ritornare a giocare a pallone? Dice lui. È vero Fabrizio che dici così? Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, sento un francordine parecchio carico, in quarantena, ma sembra in villeggiatura più che altro. Qua cominciate a scapocciare, cominciate a farvi scapocciare. Sai, una delle grandi domande mie, Pier, di questo periodo era, staranno facendo la quarantena insieme? E se sì, rispetteranno il metro di distanza? Beh, allora, adesso abbiamo anche la scusa, possiamo far finta di essere babbo e figlio e facciamo un po' di passeggiate insieme in giro. Tra l'altro, sì, esatto, di Biasina, io lo porto nel carrozzino. Diciamo, ai pochi, oltre a essere ormai una delle figure più popolari del mondo web, pur non avendo praticamente mai visto, il signor Biasin è milanista, conferma, vero Fabrizio? Mio padre è super milanista, infatti mi odia, mi detesta e non mi farà avere neanche un centesimo di eredità, anche perché non c'è niente da lasciarmi. è amicissimo di Ciccio, in compenso lascerà tutto a lui. Lascerà tutto a lui. Ma non a me, mio nipote, perché io... come dire, non avrò il tempo di godere. No, però ragazzi, veramente vi prego, un po' di buon umore, un po' di speranza. Sì. Buon umore è un po' difficile, questi già speranza. No, ma speranza ce l'abbiamo, con ogni riferimento al ministro. Scusami Carlo, casuale, ma io non ho capito, ma Franco contestava l'idea di interrompere qui la stagione? No, siamo partiti, scusami, sì. Faccio il riassunto delle puntate precedenti. Siamo partiti dal dissidio Albertini-Inzaghi e io mi sono permesso di dire che Inzaghi, quando dice noi vogliamo giocare, perché, come, che cosa si può pensare adesso di riprendere a giocare? Io dopo Pescara, quando avevo 22 punti, chissà perché poi segnala questa distanza da classifica, ho detto basta giocare, eccetera. La verità è che Inzaghi dice quello che dice il suo presidente, e cioè è inutile che fate le storie, perché noi ci siamo guadagnati la Serie A, l'anno 21 dobbiamo giocare in Serie A. Questo è il non detto di Inzaghi nelle discussioni che ha fatto, tra virgolette, che mi sembra arrabbiare, dire, mi sembra un po' molto umano Albertini. Però sì, perché mi sembra molto umano, perché voglio dire, allora qui ci sono, insomma, il discorso è più complessivo. È ovvio che nell'ambito della sicurezza che tutti dobbiamo avere, del dolore che tutti stiamo vivendo, della preoccupazione che tutto il mondo ha, poi nel momento nel quale si comincia a ripensare al futuro e al fatto che poi prima o poi qualcosa, in qualche modo dovremo uscirne, è ovvio che c'è chi è, diciamo, più motivato a ricominciare la stagione. Certo. Il Liverpool di Klopp, pensa al Liverpool di Klopp, no? Che praticamente ha vinto il campionato a dicembre, non lo vince da una vita. Secondo me, con la stagione garantire... è ovvio che c'è un po' di voglia in più, magari, di una squadra di metà classifica o di una squadra che rischia di retrocedere. Sì, però in questa ragione ha ragione Ciccio, ammettiamolo, io voglio finire il campionato, certo, perché così, forse si dà per scontato, per sottinteso, in un momento in cui scontato e sottinteso c'è, cioè, abbastanza poco, dicevi, no, Fabrizio. La spiegazione, Carlo, scusate, le spiegazioni devono essere sincere, perché è inutile raccontare la favola di Cappuccetto Rosso. Adesso anche Tare, che dice una cosa di una volgarità assoluta, dobbiamo ricominciare per rispetto dei morti. No, il rispetto dei morti è un'altra cosa, e non cominciamo a confondere il sacro con il profano. Sì. La verità è che lui basta dire dobbiamo ricominciare, noi vogliamo ricominciare perché vogliamo provare a vincere lo scudetto, questa è la verità. Vorremmo avere la speranza di tornare alla normalità, questo è il vero segno. E perché perché oltre alla normalità abbiamo conquistato, faccio il discorso della Lazio, il diritto di poterci giocare lo scudetto a 12 giorni dalla fine con delle possibilità. È chiaro che ci farebbe piacere giocare questa gara. Certo, cioè, è la cosa più normale, più legittima del mondo. Sono d'accordo, i morti lasciamoli perdere, perché mi sembrano piani completamente diversi. Ma è normale che la Lazio abbia voglia di di giocarsi lo scudetto. È normale, certo. È giusto, è legittimo. Ma certo, ma se tu guardi la composizione, pure ovviamente colpita da un dolore incredibile di questa se città, tu guardi la composizione dei due partiti è tutto molto chiaro, no? Sì. Detto ciò, scusatemi io comprendo le ragioni di tutte, ci sono anche delle ragioni molto importanti, no? C'è chi ha vinto il campionato, cioè il Benevento ha vinto il campionato, ci mancherebbe altro. Dopodiché bisogna ragionare anche su quello che sarebbe questa ripresa del campionato. Intanto torni a giocare almeno due mesi dopo aver interrotto, e questo significa giocare un altro campionato. La seconda cosa che devi giocare, finisco in fretta, la seconda cosa è che devi giocare 120 partite in due mesi, cioè ogni tre giorni questi scendono in campo e per forza di cose si fanno male. La terza cosa è che vai a incocciare sulla stagione 2020-2021, che è l'unica cosa che va preservata assolutamente. Ci sono 2000 controindicazioni, secondo me, sulla ripresa di questo campionato. Dobbiamo pensare a limitare i danni, come con il taglio degli stipendi dei giocatori, e purtroppo fare un passo indietro rispetto a questa stagione, per come la vedo io. Sì, la Bundesliga, scusa Franco, poi ti lascio la parola. Naturalmente la Bundesliga la vedi in maniera molto diversa, perché il presidente della Lega tedesca ha detto si ricomincia secondo un protocollo ben preciso. Il nostro obiettivo è finire la stagione entro il 30 giugno, lì mi sembra che non ci siano partiti contrapposti. Prego Franco. Ma come si fa? Allora, io dico questo: una volta che abbiamo finalmente fatto abbattere il muro del 30 giugno, e cioè che si può sconfinare nel mese di luglio, abbiamo già, diciamo, tra virgolette, risolto. In questo momento nessuno è in grado di poter dire e comunque di poter esprimere un giudizio, chiudiamo o non chiudiamo, sulla base di nulla, ma lo fanno solo e soltanto sulla base del proprio tornaconto personale. Io dico, in questo momento solo e soltanto la comunità scientifica è in grado di stabilire in soldoni quale sarà il momento in cui si potrà aprire a rate e per fasce d'età il paese Italia. Poi a quel punto, poiché il calcio comunque contribuisce a realizzare una parte del PIL, è giusto che anche il calcio riprenda, ma in questo momento quello che voglio sottolineare io è che se tu leggi le dichiarazioni dei presidenti delle società e le loro posizioni e in controluce vedi la classifica, ti rendi conto che parlano solo e soltanto quello che ti ho detto io prima. Posso dirvi, non tutti, perché scusatemi, adesso ci mancherebbe che mi metto a difendere questo e quell'altro, però per esempio la Juventus, che mi sembra la società che ha più o meno fatto intendere per noi possiamo anche terminare qua, è la squadra prima in classifica. Per cui se lo fa la Juventus, evidentemente lo possono fare anche gli altri. Sì, la Juve, lo dico, ma io ho apprezzato molto l'uscita della Juve, che mi risulta, correggetemi se mi sbaglio, che ha già detto che non vorrebbe, ovviamente, non avrebbe nessuna pretesa di vincere il campionato tra l'altro qui, giusto? Mancherebbe altro. Mancherebbe altro, perché comunque dire, è un campionato in questo momento che non è assegnabile, il vantaggio della Juve. Indiscutibile questo, Pier. Ma io ripeto, cioè, siamo credo tutti, e penso che non ce ne possa essere uno fra i presidenti vogliosi di ricominciare, di vedere se ci sono i margini per finire. Il problema è che non lo sappiamo. Ce lo devo dire ce lo deve dire il governo, punto. Scusami, Pier, ma c'è, si chiama Lotito, come no? Si chiama De Laurenti, scusami, chi sono quelli che vorrebbero cominciare ieri pomeriggio? Non domani, ieri volevano cominciare. Allora, ma senza, il problema senza vero è proprio questo. Noi non siamo in grado oggi di poter esprimere un pronostico di questo genere. E comunque noi dobbiamo metterci di fronte a questa scadenza. E cioè, se ci sono le condizioni di sicurezza per tutti, spettatori, giocatori, allenatori, non parliamo di tutti gli altri che vengono ignorati in questo momento, e cioè i magazzinieri, quelli che si occupano delle riprese televisive, eccetera. Se ci sono le condizioni si ricomincia, se ci sono i tempi si ricomincia, altrimenti si studierà un'altra soluzione. Questa sì, è secondo me l'approccio. Io sono d'accordo con te, Franco, aggiungendo il fatto che noi possiamo anche tirar giù la Claire stamattina, cioè oggi pomeriggio, stasera, quando volete voi, però l'UEFA non lo farà attualmente, quindi mi sembra un po' una fuga in avanti quello di dire chiudiamola qui oggi subito. L'ha fatto il CIO con le Olimpiadi, ci vediamo l'anno prossimo. L'hanno fatto tutti quanti, se ne accorgerà anche l'UEFA a un certo punto. Poi parliamoci chiaro, la situazione la conosciamo tutti, cioè in questo momento non ha alcun senso provare a forzare le cose. L'unica cosa che si deve fare è garantire la salvezza alle decine e decine di squadre dalla Lega Pro in giù, che invece rischiano veramente di finire gambellati. Non c'è dubbio, ma sì, questo è un tema più, diciamo, politico, di governo, di filiera e di contributi economici. Io credo che l'UEFA abbia un piccolo vantaggio rispetto alla dimensione ovviamente dei campionati domestici. Miglior numero di partite. Le partite oggettivamente sono poche, cioè insomma, io credo che l'UEFA abbia un compito da questo punto di vista molto più semplice. È chiaro che il presupposto fondamentale perché si possa giocare in Europa è che si giochi, che i giocatori tornino ad allenarsi e possano essere liberi di farlo, perché però ecco, da un punto di vista tecnico siamo arrivati a un punto della stagione dove veramente siamo al... Questo è evidente, però Pier, ci potrebbe essere l'ulteriore paradosso di un campionato italiano che decide di chiudere i battenti con le squadre ancora impegnate in Coppa, tra cui la Juventus, che invece si allenano per giocare in Europa. Invece io penso che faranno di tutto, che si farà di tutto per provare a giocare. E ripeto, è sano, cioè è giusto, l'essere umano deve essere ottimista e deve essere proteso verso la speranza e il futuro. È assolutamente normale da questo punto di vista. Io non ci trovo niente di male e trovo assolutamente umano che chi è vicino a un obiettivo o ha la possibilità di vivere una grande speranza, come nel caso della Lazio, possa essere chiaramente più motivato. La considero la cosa più normale, più logica del mondo e anche molto giusta. Il problema è che torniamo al punto di partenza. Non avete considerato una cosa, una difficoltà ulteriore a proposito dell'UEFA? E cioè, voi non considerate il fatto che in Europa ci sono diverse velocità di contagio. Guarda, la Spagna, l'Olanda ti hanno già fatto capire che il campionato probabilmente non riprende. E certo, ma perché loro che hanno subito l'ondata due o tre settimane di ritardo rispetto alle nostre. La situazione è profondamente diversa, però comunque il disegno abbastanza fantascientifico dell'NBA insegna che se si ha la volontà totale di chiudere la stagione si possono trovare soluzioni estremamente creative, forse anche troppo creative. Ma io volevo chiedere a Fabrizio, che invece sarebbe più dell'idea, finisce qui, cosa si fa con promozioni, retrocessioni, Inzaghi, Albertini? Allora, è chiaro che quello è un problemone, no? Perché uno ti dice, se tu... Siamo tutti d'accordo nel non assegnare lo scudetto, tanto per cominciare, su questo non ci piove. Dopodiché o decidi di cristallizzare le posizioni e fai con quello, o per esempio ampli la prossima stagione a 22 squadre. So che non è una cosa bellissima, però fai questa cosa qui, quindi quantomeno preservi le promozioni dalla B, non so, le prime due dalla B, e cerchi di accontentare il più possibile tutti quanti. È evidente che qualcuno rimarrà scontento, ma siamo in una situazione per cui bisogna tapparsi il naso e capire dove stiamo andando. La cosa più importante è salvaguardare la stagione 2020-2021, perché la stagione 2020-2021 è fondamentale. Se andiamo a intaccare quella siamo rovinati. Scusami, tu non consideri la grande difficoltà che procura questa soluzione. Allora, tu vai incontro a una stagione che ha due sbarramenti, e cioè l'11 giugno comincia l'Euro 2021 comincia l'Europeo. Infatti io ti dico, iniziamo la stagione il 15 di agosto. Il luglio cominciano le Olimpiadi. Iniziamo la stagione il 15 di agosto. Allora tu non puoi andare oltre per far giocare 27.500. Ma infatti no, Franco, per quello il mio ragionamento è: lasciamo perdere questa stagione purtroppo e organizziamo bene la prossima, cioè anticipiamo il via, invece di iniziare con comodo verso fine agosto, iniziamo un attimo prima e riusciamo a far stare tutto, perché la prossima stagione... Un attimo non credo. E poi scusami, i due della Serie B che sono staccati rispetto agli altri, va bene. Ho capito, ma Franco, ma tu ti riesci a immaginare 120 partite a porte chiuse, raccolte in due mesi? Per me è una roba che non esiste. Io dico questo, io penso questo. Dipende da quando sarà possibile cominciare a farli allenare, eventualmente a farli giocare. In questo momento il fatto che tu dici è impossibile non è così, perché se tu hai no, non impossibile, Franco, inguardabile. Vabbè, ho capito. Allora, ragazzi, fra un mese adesso, alla luce di quello che abbiamo letto, che ovviamente ho previsioni. Appuntamento al 22 di aprile per fare un pronostico attendibile. Sì, esatto. E oggi è il primo aprile e io congedo tutta la compagnia, anche se è stato bellissimo e rifaremo al più presto. Però adesso devo parlare di un'altra clamorosa sentenza che abbiamo visto oggi riguarda Iannone, sì, pazzesco. Perché gli hanno detto lì bisogna chiamare non il 113, che è insufficiente, bisogna chiamare il 339. Sì, no, allora facciamo così, state qui, perché io invece del 339 ho fatto un altro numero, chiamato Carlo Pernat. Ciao Carletto, state qua. Ciao, tutti, ragazzi, sentiamo cosa hanno a dire. Guarda, qui siamo a livello neuro, hanno ragione. Cioè, qui siamo di fronte a una sentenza che ha dell'incredibile, a parte che è stata portata avanti col tempo troppo esagerata. Qui praticamente viene riconosciuta un'assunzione accidentale, colposa e non dolosa per una situazione alimentare, praticamente mangiando della carne. Ha mangiato una bistecca al ristorante, nella bistecca c'erano gli anabolizzanti. Però di quello cosa c'era? C'era un dronastanondolone. Quella roba lì, sì, c'era quella roba lì. Ha mangiato la bistecca al ristorante, questa roba gli è rimasta del sangue, gli hanno fatto le prove, il risultato positivo agli anabolizzanti, morale 18 mesi di squalifica, che praticamente non ti dico che è l'ergastolo, ma quasi per un pilota di moto alla sua età. Ma oltretutto ti dico che nella sentenza hanno messo vittima di contaminazione alimentare, quindi è una sentenza che lo assolve, capisci cosa voglio dire? Quando tu metti vittima di contaminazione alimentare, praticamente accidentale addirittura hanno messo, cioè io credo veramente che stiamo rasentando. Cioè, io non ho tutta la motivazione della sentenza, evidentemente la porteranno oggi, ma queste sono le cose principali. Io credo che sia una cosa che non ho mai visto in 40 anni di sport. Io sono favorevole all'antidoping, come tutti noi, ci mancherebbe altro, ragazzi. Al minimo gli atleti di qualsiasi disciplina devono essere colpiti. Ma qua siamo di fronte a una sentenza che lo assolve, perché dice che è una cosa accidentale alimentare, non dolosa, colposa, e mi dai 18 mesi di squalifica, cioè rovinando praticamente la carriera di un pilota che fino ad oggi può aver sbagliato, fatto giusto, ma questo non c'entra niente. Aggiungendo peraltro, mi pare, nelle motivazioni, colpevoli di non aver controllato sul web l'elenco delle sostanze proibite. Credo che tra queste non ci fosse il filetto. Propongo una puntata speciale, Pierluigi, una puntata speciale di Mangia Come Parli, perché bisogna stare attenti anche a quello. La facciamo, no, è una delle cose più incredibili, ma dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista proprio della logica. Giuridico, sì, proprio della logica. Infatti ho visto che c'è una reazione, giustamente, della quale si sottolinea la fiducia di una revisione, perché di fatto è stata riconosciuta la sua innocenza, proprio nei fatti, e allora però l'innocenza non può portare a 18 mesi di squalifica. No, dicono hai assunto la sostanza per sbaglio mangiando una bistecca e ti squalifico per 18 mesi, che ripeto vuol dire 21 giugno 2021, quindi praticamente quel che resta di questa stagione, se mai ci sarà, più un discreto pezzo della prossima. Sì, ma tu capisci una cosa. Allora, tanto per incominciare, mettiamoci d'accordo tutti assieme, io, te, Pardo e compagnia bella, che quando andiamo al ristorante dobbiamo chiedergli se quella carne è variata o se è una carne buona. Perché se no non abbiamo controllato l'elenco delle sostanze. Però è il famoso discorso di come chiedere all'osta se il vino è buono. Cioè, sì, ma guardi, direi proprio di sì. Un filetto avariato dopante straordinario. Sì, il massimo sarebbe il filetto avariato col vino andato male. Sarebbe una copiata mondiale. Poi, sicuramente questo sarà il TAS, che poi è l'organismo al quale si va a ricorrere, la PRIA lo farà sicuramente domani mattina, non potrà altro che assolverlo al 100%, Ti dirò di più, non fortunatamente perché stiamo parlando di salute, per la sua carriera è capitato in un periodo che non si corre, per ovvi motivi che noi sappiamo, e io spero che si riprenda ad agosto, non lo so. Ma il Tasso, spero che in un paio di mesi, sai che il Tasso è sempre una cosa piuttosto lunga, in un paio di mesi si mettano d'accordo e facciano resistenza, perché qua ne va della carriera di un pilota, volente o nolente, di una casa che ha investito su un pilota per vincere, dei meccanici, dei tecnici, dello sviluppo, c'è tutto un insieme di cose, perché questa sentenza veramente... Io la considero da neuro. Sì, no, non so cosa dire. No, io so io cosa dire. Vi saluto tutti con un tweet del famoso Biasin Fabrizio di ieri che racchiude la spiegazione di tutto. Domani, scrive Biasin, due punti. Domani la clamorosa combo isolamento più pesce d'aprile rischia di partorire cose agghiaccianti. Non facciamo gli stronzi. Questo ha scritto Biasin. Probabilmente. probabilmente Fabri può essere successo questo. No, non credo sia un pesce d'aprile, sai, perché è una sentenza della FIM che hanno mandato. Ma no, ma ovviamente sono io che sto no, facendo. No, ma hai detto bene, perché questo no, è tutto di un pesce d'aprile, cioè, incredibile. Non so come dire. Incredibile. Il dubbio, come quando leggo delle volte delle notizie, ogni tanto capita di pensare che possa esserci, no, quel meraviglioso sito di satira. Ogni tanto sai che il verosimile o il falso si confonde. Devo dirti che oggi, essendo anche il primo aprile, una roba del genere ci avevo anche pensato, però... Ma bene, ragazzi, buon primo aprile a tutti, tranne che a Pardo me lo tengo per andare poi a parlare con Daniel Martinez, di prendere in giro Daniel Martinez innanzitutto, perché il Boca ha battuto il River, non ho ancora avuto occasione, e poi per questa idea, che a me sembra folle, di campionati di apertura e clausura anche in Italia. Borsa. Va bene, ciao a tutti. Si gioca giugno, luglio, agosto, campionato d'estate, bellissimo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Le dio de afuera, Carlito le rompió el arco, señoras y señores. Sueña, sueña con el título, sueña, sueña con el campeonato. Questo, ve lo assicuro, è un effetto sonoro pescato a caso, con il quale voglio salutare il mio amico Daniel Martinez. Ciao Daniel. Ciao, ciao Carlo. Sì, a caso sicuramente. Non so bene che cosa sì, sia. Sì, a caso. Che cos'è? Non sapeva cosa mettere. Non sapeva cosa, che cos'è? Non sapeva cosa mettere. È successo un mese fa. Adesso, perché non pensi al 9 dicembre dell'anno scorso, allora? Che ha dei bolsoni. La radio ha sicuramente degli archivi non ricordo bene, ma mi pare fosse il gol scudetto di Carlos Tevez ai danni del River Plate. Ma vabbè, sì. La prima cosa che mi è venuta, cioè che è capitata sotto mano. Senti, si parla qui da noi di apertura e clausura, modello che insomma è stato grosso modo inventato in Argentina, però abbandonato dal 2014. Sì, è vero, è vero. Si parla in realtà per quanto tempo? Perché qua si può approfittare la congiuntura che propone il fatto che il Mondiale 2022 si dovrà giocare in inverno, e allora la possibilità è agganciarsi a quella onda e fare un campionato corto, due campionati corto, così per questo periodo potrebbe essere una idea. Io penso che non prenderà con grande potenza un tipo di situazione come questa. In Argentina, per darti un esempio, giocano 24 squadre. È molto esteso come territorio, ogni spesa per andare non so, da Buenos Aires a Tucumán, per ricordarmi quel 1-1 che ha permesso il gol di Carlos Tevez, che tanto stai festeggiando da un mese. Vado avanti, ti dico solo questo, io vado avanti, cioè vado avanti a festeggiare. Sì. Per dire questo, questo è un viaggio di come se fosse d'Italia a, che ne so, d'Italia al Belgio, uh-huh, una cosa del genere, e d'Italia a Parigi, è una cosa così, nel nord d'Italia a Parigi. Questa è la situazione, e che per quello che in Argentina deve funzionare, ha funzionato per un po' di tempo quella formula, perché ha ragioni economiche, ha ragioni geografiche, sì, di logistica, che se no fanno troppo complicata la sì, situazione, anche una situazione. Però si tratterebbe di giocare due campionati spezzati. A te piace, Pierluigi? Ti piacerebbe idea? Non mi piace, mentre in assoluto, ma è chiaro che sarebbe una rivoluzione copernicana, si potrebbe anche giocare un unico campionato seguendo il ritmo dell'anno solare, che quello non sarebbe di per sé un aspetto drammatico. Però i due campionati brevi non mi fanno impazzire, perché credo che esista una sacralità, una tradizione, non lo so, non mi fa impazzire. Sono campioncini, non si può parlare di, sono piccole cose, no, anche a me non piace. E quella idea, io ho festeggiato quando l'Argentina ha lasciato quella formula, anche con grande difficoltà, perché il formato dell'Argentina sta cambiando proprio adesso, in questi ultimi mesi c'è stato il cambio della Superliga, e di nuovo ci saranno cambiamenti importanti in Argentina. Però perché vi fate un'idea qual è la crisi e la difficoltà e lo diverso di là, che non comparabile col calcio italiano. Ho preso ad esempio quello che succederà nei prossimi giorni, che si sta facendo per uscire il calcio è da 17 giorni fermo in Argentina, e come si fa, dove sono i soldi, come si farà. E allora ho trovato che ad esempio le TV che hanno i diritti, che sono in quasi tutti i club oltre il 70% dei loro ingressi, e adesso gli unici, perché le altre alternative sono chiuse evidentemente, sì, e sono in una quantità che sono 540 milioni di pesos argentini. Sapete quanto è quello in euros a oggi? 8 milioni 100 mila euro, del quale il 18% rimane nella AFA, e devono repartirlo, vuol dire darlo, suddividerlo tra 24 club. Sì. 8 milioni. Ma adesso qual è la situazione attuale lì? Cioè il dibattito lì qual è, Daniele? Il dibattito è come salvarsi, come fare a sopravvivere tutti. Si pensano a tre modi. Non si vuole lasciare in casa nessuno, perché i tassi di disoccupazione sono tantissimi. Ci sono 30.000 lavoratori, includendo tutti, giocatori, arbitri, tutti. 30.000, l'indotto, come si dice qua, è di 30.000 lavoratori. Non vogliono sospendere il pagamento solo dei giocatori, potrebbero farlo, e ovviamente del resto no, e neanche dei giocatori in questo caso, perché cercano non sono gli stipendi che si vedono qua, quelli che hanno i giocatori là. E allora pensano a tre alternative. Una, un piano di salvataggio, diciamo, che vuol dire i club possono contraere altri debiti solo per pagare. Sì. Possono chiedere dei prestiti alle banche con un finanziamento morbido, sì, blando, agevolato. Dice da noi. Ma sapete quanto è il percentuale di un finanziamento blando annuale? 24%. Alla faccia del blando. Alla faccia del blando. E allora che si può pensare? Che solo il governo e lo Stato può mettere mano alla situazione attraverso, guarda, fondi pubblici. Io credo che comunque, Pier, tutti siamo sulla stessa barca, compresi i tedeschi, sì, perché Seifert, il presidente della Lega, della Bundesliga, ha detto se la stagione non venisse giocata fino in fondo alcuni club anche qui potrebbero rischiare la vita. Questo insomma di cosa abbiamo fatto ieri. Io credo che su una chiave diciamo più complessiva, quello che succede in tutte le parti del mondo si assomiglia molto, e c'è un bisogno di Stato, cioè alla fine ci rendiamo conto che che in un momento come questo di difficoltà, di fronte a una cosa imprevista, imprevedibile, non è colpa di nessuno, forse è colpa del genere umano in generale, sentivo discorsi sulla deforestazione, ma insomma voglio dire, di fronte a una sfiga monumentale come quella che ci è capitata, poi alla fine i vecchi stati, il buon vecchio stato, il buon vecchio apparato pubblico è quello che da una parte all'altra del mondo si invoca, perché è anche giusto che sia così, insomma, e quindi ci può essere un ritorno a certi valori, a certi bisogni, ovviamente la sanità, ovviamente l'intervento dello Stato, anche assistenzialista che dà una mano. Poi è ovvio che mi auguro sia per una fase piccola per rilanciare, per aiutare, però insomma sì, governi e gli stati da tutte le parti del mondo servono a questo, aiutare chi è in difficoltà. In questo momento purtroppo sono tante le persone in difficoltà dal punto di vista non solo sanitario ma anche economico. Sottolineo solo che la instabilità economica e anche di tipo sociale che c'è in molti paesi sudamericani, Argentina anche naturalmente, complica tanto le cose. E sottolineo che è stato il River Plate il club che ha per primo detto che non si doveva giocare, ha chiuso lo stadio che doveva ricevere all'Atletico di Tucumán il sabato 14 marzo, è stato il primo club e incluso sta aspettando le sanzioni per questa misura che a tutte luci oggi mi sa sia stata intelligente, lo minimo intelligente. Sì, lo sottolinei semplicemente perché sei tifoso del River, questo lo sappiamo tutti. Ma al di là di questo, approfitto della tua presenza perché hai detto un'ultima cosa che non riguarda questo discorso, ma riguarda un altro tuo amico, cioè Lionel Messi. Questa diatriba con il Barcellona dove porterà? Se lo chiede a me, penso che porterà alla sostituzione dell'attuale giunta del Barcellona. I club in Spagna come in Argentina sono una questione sociale, una questione popolare, una questione della gente, e non è il primo passo che la giunta Bartolomeu ha dato in falso, non è la prima mancata un cortocircuito di comunicazione che c'è stato. La nota dei capitani che per prima ha pubblicato Lionel Messi sottolinea chiaramente la differenza che c'è tra il club e gli attori, tra i dirigenti e gli attori, e mi sa che questo è proprio la goccia che farà che una volta superata questa crisi ovviamente che terribilmente sta colpendo anche la Spagna come a noi qua in Italia, una volta superato questo, la prima cosa che si farà è chiamare elezione e definita la giunta. Quindi se cambia il presidente non si cambia Messi, cioè Messi rimarrà lì. Messi è il Barcellona, amico mio, Messi è il Barcellona. Ieri mi chiedevano dall'America in un collegamento che avevo che differenza si Cristiano Ronaldo è già nella Juventus come Messi. Dico, è impossibile, tutti gli anni che quello che è Messi nel Barcellona non si fa in un anno e mezzo. Cristiano è molto importante nella Juventus, Cristiano è un giocatore importantissimo, ma Messi è l'anima del Barcellona, è proprio tutt'uno, è una cosa che è come Totti alla Roma, che non so, va più in là della importanza calcistica, sì, o 53 sì, gol che ha fatto Cristiano Ci Ronaldo. Ci fidiamo, Pier. Ma allora io penso che sì, penso che Messi sia, non è che sia troppo grande per il Barcellona, ma è troppo grande per la giunta direttiva del Barcellona di questo momento. Cioè, se devo pensare alla soluzione più razionale, a meno che Messi non voglia andarsene da altre parti, ma io non credo che alla fine lui sia nel suo habitat naturale, voglia rimanere lì, poi magari questo veramente non lo so, magari qualcuno più vicino a lui può saperlo, ma insomma io non credo che lui voglia andare via, e quindi penso che alla fine nella dialettica aspra di queste settimane, di questi giorni, alla fine vincerà lui, perché è Messi. Quindi poi Bartomeu, insomma, non a caso quanti... di Bartomeu che adesso non giudico dal punto di vista di come fa il dirigente, ma insomma di un bravo dirigente si possono trovare degli omologhi di Messi, non ce ne sono. No, ma io credo infatti che Messi abbia quanti giocatori trovi al mondo che possono permettersi di sputtanare pubblicamente il club in un nanosecondo, rendendo tutto appunto questo dissidio così, così noto, così pubblico. Neanche dalle nostre parti succede al momento, poi aspettiamo con fiducia. Grazie Daniel, a presto. Grazie a voi. Ciao, ciao. Qualche gol ciao, da arrivo, passalo. No, poi ti mando l'audio, ti mando l'audio così la metti come suoneria del cellulare, ok? Grazie. Non lo fa. No, già che a me. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi ha fatto molto più effetto, devo dire la verità, la cancellazione di Roma che di Wimbledon, perché il cuore mi porta a Roma, poi è ovvio che la storia, forse il tennis ti porta un po' più a Wimbledon, però è una cancellazione dietro l'altra e credo che si andrà avanti così per un po', quindi dobbiamo avere pazienza come la stanno avendo tutti e vediamo un po' che uscirà fuori. Questo era Berrettini a Sky. Ciao Paolo Bertolucci. Buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, recluso, ma ci sono cose peggiori nella vita, l'importante è la salute, quindi bene. Ho riscoperto l'aspirapolvere, queste cose, insomma, sono cose belle, della gioventù che tornano alla mente. Sì, a tempo limitato, facciamo così. Tempo sì, limitato, così, quello che serve. Siamo a casa e limitato. E cominciamo a fare un po' le cose a metà, durante la vendemmia saremo ancora qua. Paolo, sei d'accordo con Berrettini? Anche a te ha fatto più effetto la cancellazione di Roma, così no, effetto emotivo no, piuttosto che quella di Wimbledon? A me no, perché Wimbledon per me... con l'età capisco... ci sono poche cose che mi eccitano. Una è il Gran Premio di Monte Carlo, la roba più anacronistica che c'è, quest'anno cancellato. L'altra è Wimbledon, cancellato, vorrei dormire per un anno a questo punto. D'altronde è così, io lo capisco, sono il romano, per cui insomma Roma, eccetera. Però insomma paragonare Roma a Wimbledon ci vuole un bel coraggio. Il tennis secondo me si è mosso bene, perché subito non è stata di settimana per settimana, porte chiuse, metà, forse sì e no, chiuso per 6 settimane e poi dopo ha detto prolunghiamo, andiamo avanti. Io se tutto andrà bene, secondo me cemento americano, insomma, ma deve andare tutto bene, Flacimento a settembre. Sì, altrimenti si rischia veramente di partire insieme alla vendetta. Dal punto di vista economico, invece, leggevo che Wimbledon ha una mega assicurazione, per cui non ci saranno gravi danni economici. Insomma, sono settimane e quelle che abbiamo passato e quelle che verranno, in cui abbiamo parlato e parleremo delle grandi difficoltà dello sport dal punto di vista economico dopo il terremoto. Il tennis come lo immagini? Il tennis è un problema, perché i giocatori se non giocano non guadagnano, cioè non hanno uno stipendio della società, da niente, per cui sono a zero. Adesso poi non so, con i contratti pubblicitari andranno rivisti anche quelli, penso, perché non credo che le aziende pagano o vogliano pagare i giocatori che stanno a casa, quindi da quel punto di vista lì sicuramente è una bella botta per giocatori professionistici che, ripeto, non hanno nessun'altra entrata, non hanno nessuna società dietro. Ci saranno anche i tornei che rischiano, però ci sarà anche qualche torneo sì che rischia di brutto, e poi bisognerà vedere, insomma, credo che alla fin fine questa, se non sarà un'annata, come dire, saltata a pie pari, poco ci manca. Credo che sia giusto anche quella di mantenere la classifica dal giorno in cui l'hanno fermata. Saranno fermi 2, 3, 4, speriamo soltanto 4 mesi, ma potrebbero essere anche 6, e ripartire con la classifica dei primi di marzo. Sì, altra grande suggestione di questi giorni riguarda, lo sai bene, se ne hai parlato anche tu a Sky diverse volte, Federer che compirà gli anni il giorno dell'8 di agosto del 2021, compirà 40 anni e potrebbe, tutti sognano, insomma tutti quanti sogniamo, diciamoci la verità, sarebbe una favola forse fin troppo bella per essere vera, compleanno 40 anni con medaglia d'oro. Fossi Federer, ti programmeresti per quella roba lì? Ma io credo che lui vada un pochino più piano, nel senso che non dico che viva la giornata, ma poco ci manca. Io credo che lui la grossa chance per chiudere e salutare, mi auguro di no, ma probabilmente se l'è giocata lo scorso anno a Wimbledon. Tutto quello che secondo me veramente sarà straguadagnato, quello lì si rimane un sogno, l'8 agosto eccetera, però non so, tanto vediamo di riprendere e vediamo che Roger torni in campo a deliziarci insieme agli altri fenomeni. Poi dopo, se ci troveremo tra un anno a Tokyo, sentiamo magari il giorno prima, dopo la finale, e ne parliamo. Dai. Sì, però sì, si dice anche, c'è anche questo discorso in piedi, molti dicono anche in prospettiva giochi olimpici ovviamente rinviati, atleti che hanno una certa età, che da Elisa Di Francesca a Zanardi a ce ne sono molti, no? Montano, che però devo arrivare fino a là, un anno in più alla mia età, diceva l'altro giorno Zanardi, un anno per dal punto di vista mio, dal punto di vista atletico ne vale 7 come per i cani. Però c'è anche chi dice, però risparmiano chilometri, magari possono prolungarsi la carriera di un altro annetto. Magari no. Può valere anche per Federer. Secondo me no. Tra 25 e 26 non è un problema. Cioè, per Berrettini sì, faceva esperienza e tutto, però anche qualora malauguratamente dovesse star fermo tutto l'anno, non succede niente. Per Federer, ma anche per lo stesso Nadal, probabilmente anche per lo stesso Djokovic, anche se hanno qualche anno in meno. Star fermo, saltare una stagione veramente è come l'età dei cani. Vale. Sì, ti porto anche su un altro terreno che non è quello del tennis. Questi giorni abbiamo aperto il programma con liti di varia natura, si sta tutti in casa ma si continua a litigare, semmai attraverso i social. L'ultima frontiera è quella del campionato, riprendiamo o non riprendiamo? I due partiti sono chiaramente connotabili, no? Chi ha interessi di bandiera per riprendere, chi non ce li ha ha interessi opposti, che è per fermarsi. Sì. Non ti sembra un po' presto per prendere una decisione definitiva? Molto presto. Cioè, hanno impiegato una vita prorogando 24 ore di 24 ore, facendo veramente delle cose allucinanti a livello italiano, ma anche a livello europeo. Poi adesso partono prima, diciamo, al 28 di luglio la finale di qui di là eccetera, play out, play off, qualsiasi cosa. Io direi prima di risolvere questo problemino che mi sembra piuttosto grave e che probabilmente non tutti ancora hanno capito. Spero che avvenga. Ti sento più, non riesco più a sentire Paolo Bertolucci, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento per completare questa risposta. Io comunque già vi dico, sono d'accordo con lui, ma l'ho già detto, mi sembra terribilmente presto questo momento per chiudere tutti i discorsi e per chiudere qui la stagione. Sono certo che di questo argomento torneremo a parlare nei prossimi giorni, interessante, ma magari di questo invece, questo tema lo affronteremo domani, una risposta che Dybala ha dato alla questione stipendi della Juve tagliati eccetera eccetera, fa capire che non erano tutti poi così d'accordo. È tornato Paolo Bertolucci, ero curioso. Sono di qua, sentire, no, dicevo di risolvere questo problema che è una cosa veramente grave. E poi dopo ci sarà tempo e modo anche per inventarci dei play-off, play-out, partite giocate tutti i giorni. Tanto tutti partono alla pari, praticamente con pochissimo allenamento. Sarà uguale per tutti. Cosa vuoi fare? È un'eccezione, un momento particolare e bisogna trovare poi delle soluzioni particolari. Sì, ma anche perché insomma dalle altre parti, dando un'occhiata all'estero, io prima ho citato la Bundesliga, dove lì mi sembra sia un fronte molto compatto, e questo mi sorprende poco, perché ha parlato per tutti il presidente della Lega dicendo: il nostro piano è questo, il campionato lo chiudiamo entro il 30 giugno, siamo tutti d'accordo, se no rischiamo di sparire, molti club rischiano di sparire, faremo il tutto con un protocollo preciso, però l'idea è quella di continuare. L'NBA, ne abbiamo già parlato, ha detto è vitale finire questa stagione, perché sennò è un problema di enorme natura economica e non solo, quindi piuttosto ci chiudiamo tutti in quarantena a Las Vegas e giochiamo lì. Sembra uno scenario apocalittico, però il discorso è: se si è compatti e si ha un obiettivo comune, è presto per abbandonare ogni idea di chiusura della stagione. Sì, ma sai, noi in Italia insomma è un pollaio, ognuno dice la sua, ognuno dirà qua il suo mulino. Certo, un commissioner che prendesse in mano la situazione, non solo in questo caso, diciamo così, di emergenza, ma proprio come regola, ecco, lo metterei, che risolvesse queste beghe ridicole tra presidenti, allenatori, giocatori, campionati, chi più ne ha più ne metta. Insomma, io vedo che gli altri sport si comportano in una maniera diversa, prendono decisioni univoche e vanno avanti. Ciao Paolo, grazie davvero. Un abbraccio forte anche a te. Allora, ci fermiamo qui, torniamo naturalmente domani, tutti convocati alle 14. Grazie ancora ad Anita Panizza, Claudio Schiattone in redazione, a Roberta Prisani in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti!